questa città dentro te mi dà l'istante perfetto, io vorrei viverti soltanto un secondo. Un pomeriggio al cinema, sentirsi più felici, il sapore dei tuoi baci impressi come cicatrici, il giro in centro un buon gelato, ed io che sono innamorato, innamorato, oh oh, innamorato, oh oh, innamorato, oh oh, innamorato, innamorato, oh oh, innamorato, innamorato.